Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui alle 8 e 20 minuti, eccoci. Siamo buongiorno. Qui questo mercoledì 29 marzo. Ormai anche marzo è quasi finito, eh? Hai visto? Sì, in effetti. Ma arriva la prima. No, perché certe volte io ammetto, io ho un problema notturno nelle poche ore in cui si combatte con il letto. E a quel punto dico: mi addormento con il letto. E in questo senso qua volevo subito spiegare per evitare che ci fossero salaci. Magari no. Allora, adesso che uno arriva tardissimo e poi si deve svegliare presto e pensa adesso tac che mi addormento. E invece inizia il pensiero. Certo. Inizia il pensiero. Sono vecchio, i bambini sono piccoli, i giorni passano. Cacchio, è già finito marzo. Allora, siccome ieri sera ho pensato è finito marzo, non riuscivo ad addormentarmi. Se me lo ridici così, mi blocco per non di farti nuovo. Riaddormentare. Mi blocco di nuovo a questo punto. È allora, già finito marzo. Santi del giorno. Oggi due abati di Montecassino, antichi, Simplicio e Costantino, e molti vescovi delle quattro angoli della cristianità, tipo Aulo, vescovo di Poitiers, Eustachio, vescovo di Napoli, Eumaco, vescovo di Viviè. Non ve li dico tutti perché sono veramente tanti, ma Alessandro, i nomi sono tutti. Oggi è uno dei pochi giorni del calendario liturgico che non ci propone un Sant'Alessandro. In compenso, però, e vedrai che c'è un collegamento a uno dei temi che oggi trattiamo con i nostri ospiti. Oggi, nel 1849, nella mia amatissima Repubblica Romana, quella che per la prima volta fece votare almeno i cittadini di sesso maschile, ma a suffragio universale, ed era gennaio 1849, poi proclamata il 9 febbraio, ma oggi in particolare nel 1849 nasceva il triumvirato della Repubblica Romana, quello di Saffio Armelini Mazzini, poi la pagina di gloria della Repubblica Romana antipapista sarà soffocata nel sangue nei mesi successivi, ovviamente dagli schifosi francesi papisti, ma questo lo vedremo di volta in volta nei giorni. Oggi nel 1946 nasceva la Vespa Piaggio, pensa il 46, pensa quanti anni sono passati, e il prototipo elaborato a Biella l'anno prima si chiamava Paperino, secondo me Paperino forse era meglio di Vespa, non lo so, io ho questo sospetto da sempre. Nel 2009 invece si fondevano Forza Italia e Alleanza Nazionale, nasceva il Popolo delle Libertà. Auguri a Terence Hill, a Elena Maria Ricci, a Fabrizio Corona e a Eliana Argentini. Eliana Argentini è sempre stata umanamente molto simpatica per il suo impegno politico nel PD ed è una disabile, per chi si batte molto per questa causa, e io penso che la pienezza di vita, la dignità con cui lo fa, è una dimostrazione che non è una sedia a rotelle ciò che può impedire di dare pienezza e dignità alla vita. Assolutamente. Allora, noi, caro Oscar, oggi parleremo. So che ti ha accalorato molto questa cosa delle benedizioni a scuola, visto che hai parlato di santi, perché è arrivata una sentenza che ribalta tra l'altro una prima sentenza dicendo che le benedizioni a scuola sono legittime ma fuori dall'orario scolastico. Era una vicenda delle benedizioni pasquali in una scuola elementare, io le chiamo ancora elementari, insomma, primaria. Di Bologna. Non dire maestre, per favore. No, cosa devo dire? Insegnante. Maestri, una roba del libro cuore, come Spazzino al posto di operatore ecologico, sono cose. Con la vittoria al TAR avevano vinto quelli che non volevano le benedizioni, al Consiglio di Stato è stato ribaltato, quindi ci si possono fare le benedizioni. Adesso c'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, verso cui i ricorrenti andranno insomma, a chiedere un parere. Vabbè, è una vicenda che però comunque sia, anche il riconoscimento venuto dal Consiglio di Stato non piace a pezzi di entrambe le parti, perché siccome poi le benedizioni possono avvenire, non si possono impedire ovviamente, devono essere però facoltative, fuori dalle elezioni. Mm-hmm. Allora c'è una parte del mondo cattolico intransigente che dice: ah, quindi siamo equiparati a una specie di cosa come dire, clandestina e soprattutto aperta a tutti allo stesso modo. La curia invece, almeno la curia, dice: ma una decisione saggia, equilibrata. È divertente che ci sono pezzi della famiglia Prodi di mezzo, sì, che la pensano in modo diverso, perché uno dei favorevoli ricorrenti all'inizio era appunto Giovanni Prodi, invece c'è un sacerdote nipote di Prodi che dice: no, vabbè, ma va bene così, adesso non mettiamoci a... Comunque, insomma, chiamateci all'800240024 per capire se questa è anche una tematica che vi vede schierati da quale parte. Ecco. Sappiamo dove è schierato Oscar, no, in aula ci si è andati fino alla Corte Europea e si torna fino alla Corte Europea. Sono secondo me dei residui delle vecchie guerre, quelli di cui siamo da secoli, no? Sì. Sono d'accordo anch'io così. Ci saranno molti che diranno: ma scusate, non ci sono altri problemi, non ci sono altre tematiche, non ci sono altre problematiche da affrontare prima. Però, insomma, la questione della laicità della scuola pubblica è una questione invece anche importante, insomma. Del resto, pensa un po' alla Brexit che oggi viene proclamata: si volevano separare da noi, finiranno separate tra loro, visto che la Scozia nel frattempo rivuole fare il referendum. Non lo so, mi sembra che questi due anni cominciano, però distanza di 10 mesi dal referendum, cominciano in maniera molto diversa dal trionfo immaginato da chi ha vinto il referendum in Gran Bretagna. Almeno questa è la mia sensazione. Economicamente stanno capendo che le cose non gli andranno così bene, devono stare molto attenti, materie complessissime per la separazione, vedremo la cosa come va. Però nel frattempo qualche piccola notizia europea buona c'è, perché per esempio su Corriere della Sera Fubini ci annuncia che sta per nascere una cosa di cui si è parlato da molto tempo: i famosi bond europei sovrani. Non sono proprio fatti con i pezzi del debito pubblico congiunto, ma con le collateralizzazioni bancarie. Però è una cosa molto importante questa che annuncia Federico Fubini sul Corriere della Sera, perché ci dice che un pezzo in più aggiuntivo di corresponsabilità con l'emissione di titoli di debito viene fatto, e chissà se poi davvero di qui a 2 anni nella trattativa i britannici saranno proprio convinti che hanno fatto un buon affare. Ma infatti bisogna capire anche poi in questi 2 anni come andranno avanti i rapporti, i vari trattati, no, tra i vari paesi. Cioè, siamo partiti e diciamo la Brexit ci sarà nell'aprile del 2019, la Gran Bretagna non farà parte dell'Unione Europea. Ma come si arriverà a questo traguardo finale? Questa è la grande incognita. Esatto, dipenderà anche da chi vince le coppe europee. Tutti a Cardiff, non sottovalutare tutti a Cardiff, che questo è uno Coppa europea purtroppo di maggior impatto popolare. Purtroppo la Champions League quest'anno è chiaramente, allora, già stata assegnata alla Juventus. Ma tu vai a Melendugno, mi dicono, no? No, allora Melendugno. Allora, oggi Oscar Giannino ha fatto un articolo molto molto preciso sulla prima pagina del Messaggero a dire che questa opera a Melendugno, questa opera che finisce a Melendugno, è strategica, importante per il paese. A raccontare, insomma, che cosa sono allora quelli che si oppongono? Il solito fronte del no? No, ma anche in quel caso, di solito le sentenze in Italia bloccano le opere. Questa volta hanno fatto ricorso al TAR, hanno perso. Hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, hanno perso. Hanno detto che non erano state esaminate le alternative, ne sono state esaminate 12. Sia al TAR che al Consiglio di Stato dicono: sono state esaminate, questa è la migliore con minore impatto ambientale. Non è vero che bisogna applicare la direttiva dei disastri Seveso, perché questo è un tipo di opera per cui non si applica. Quindi, cari signori, questa è la migliore soluzione, si va avanti con i cantieri. A questo punto, mio duplice stupore, mi trovo alla testa di chi contesta un magistrato, perché il Presidente della Regione Puglia è un magistrato, il primo che dovrebbe inchinarsi. Che non è contro l'opera, ma contro il fatto che vada lì, perché lui ha proposto che vada a Brindisi, perché quello ha l'impatto ambientale. Lui ha inaugurato personalmente un'opera che ha visto espiantati centinaia e centinaia, anzi dicono alcune migliaia di ulivi, e qui si fa una storia per 200 ulivi, che non vengono distrutti, vengono piantati e rimessi. Naturalmente i nostri ascoltatori ci hanno già scritto dicendo: però se tu li sollevi e li ripiantumi e li rimetti, muoiono comunque. Comunque, adesso io non sono esperto di ulivi, però gli esperti dicono che si possono ripiantare. Ecco, e a obiettare no al giudice supremo amministrativo e a dire no è un magistrato Prima cosa che non mi, che mi sembra. Insisti, il presidente della regione. E anche un magistrato. Sì, certo. Lui dà il cattivo esempio per primo ai politici che di solito le sentenze non le rispettano. Ecco, vabbè, questa cosa mi colpisce. Secondo, la cosa che mi ha colpito anche è apprendere ieri che al sit-in, le forze dell'ordine che naturalmente devono intervenire dopo aver detto fate passare i mezzi. No, fanno tutti giustamente il sit-in, Gandhi, quindi devono intervenire le forze dell'ordine. Apprendiamo che c'erano i docenti, dei docenti con gli studenti. Dei docenti con gli studenti ai siti incontro al Consiglio di Stato. Ma non era una scuola, non era una scuola. No, scusa, cioè, qui per le gite scolastiche ci sono fior di interpretazioni circolari su chi deve esercitare le responsabilità, i singoli docenti con, che sono lì, l'istituzione scolastica, sì, se sì. Capita qualcosa, e poi in 448 i docenti invece insieme agli studenti decidono contro il Consiglio di Stato. A proposito di docenti, ma in questo caso di scuole, torniamo allora a bomba, come si suol dire, al tema che abbiamo lanciato, cioè la questione delle benedizioni nelle scuole, che poi è un tema affine, se volete, a quello dei crocifissi nelle scuole. Anche questa è una vicenda che ci siamo trascinati per questioni giudiziarie per tempo e tempo. Con noi c'è Monica Fontanelli, cioè una delle insegnanti che aveva presentato il ricorso al TAR contro la delibera del Consiglio d'Istituto di Bologna che autorizzava le benedizioni pasquali a scuola. Monica Fontanelli, buongiorno e grazie di essere qui. Quindi diciamo al momento è una delle persone che è stata sconfitta dalla seconda sentenza del Consiglio di Stato, cioè perché le benedizioni, seppure non in orario scolastico, sono considerate consentite. Come la mettiamo? Perché questa battaglia è così importante secondo lei? Questa battaglia è così importante perché è una battaglia a salvaguardia e a tutela della laicità della scuola. Avere una scuola laica oggi significa avere una scuola che diventa una frontiera per fare in modo che la società complessa, multiculturale che abbiamo possa affrontare la sfida che ci si pone davanti. Una scuola senza dogmi, una scuola aperta, una scuola che unisce su valori comuni e non ci si divide su scelte invece che sono assolutamente intime, rispettabilissime, ma che riguardano la sfera personale. E non devono entrare nelle scuole. Ma non le piace neanche, non so, la mediazione? Benedizioni sì, ma non nell'orario scolastico, per cui chi... Ma vede, la scuola è il luogo del sapere, è il luogo della formazione e dell'educazione. Lei se l'immagina cosa succederà domani quando l'imam vorrà anche lui entrare e fare i riti musulmani, poi magari verranno gli induisti, poi scientologi. La sentenza siamo un paese a maggioranza cattolica, le radici dell'Italia sono cattoliche, no? Ma questo cosa significa? Con questa sentenza domani potranno entrare nella scuola tutti quanti al di fuori dell'orario scolastico, ma la scuola non è un terreno di conquista. Paradossalmente domani un partito politico potrebbe chiedere i locali della scuola per presentare il candidato sindaco delle future elezioni. Allora questa balcanizzazione della scuola, nella quale la popolazione comunque si divide su delle scelte che possono essere politiche o religiose, non va bene. Paragonare la benedizione ad attività parascolastiche è paradossale, perché le attività parascolastiche vengono rivolte a tutti. Sì. Invece una scelta di partecipare al rito islamico, al rito cristiano, cattolico o a quello buddista, sono scelte che sono veramente individuali. Poi saldi fuori dell'orario scolastico. Oggi la scuola, sono 25 anni che ci dicono bisogna aprire la scuola, le attività che diventino centro anche al pomeriggio di aggregazione dei giovani. Nelle scuole al pomeriggio, quando non ci sono lezioni, ci sono comunque attività sportive, attività linguistiche. La scuola ormai è sempre aperta, quindi quando le faranno di notte? Non lo sappiamo. Insomma, non lo sappiamo. Se Oscar che sorride sotto i baffi, è scappato un sorrisino di fronte alla sua battuta finale, ma mi sono reso conto che scappava anche a lei, alla Fontanelli, perché ha fatto una chiusa con la battuta sardonica, tagliente, volterriana, se posso dire. C'era proprio quello spirito di dire: vabbè, ci metto anche questa. No, non lo so. L'unica questione dell'apertura alle varie confessioni religiose, come che lei utilizza come paradosso per dire un domani allora anche un imam o domani un esponente della religione buddista, di qualsiasi religione, chiederà e forse dice pretenderà di poter entrare a scuola a compiere i propri riti religiosi. Però secondo lei, immagino lei sia laica, non vogliamo entrare nelle sue convinzioni religiose, ma insomma possiamo immaginarle, vista la battaglia che sta facendo. Insomma, il fatto che sia una radice, una matrice cattolica per la maggior parte dei nostri paesi, dei nostri abitanti, della storia dell'Italia, questo non pone la religione cattolica, diciamo, in una posizione prevalente rispetto alle altre? Ma allora, per quanto riguarda le mie scelte religiose, come le scelte religiose dei ricorrenti, vorrei sottolineare che si sta sbagliando, nel senso che tra noi ricorrenti ci sono cattolici praticanti, quindi essere laico oggi non significa non avere una fede religiosa o non essere cattolici, è a prescindere. E questa è la prima puntualizzazione. Secondo, guardi, è chiaro che in Italia la maggioranza delle persone sono cattoliche, ma è altrettanto evidente che con questa sentenza si apre la scuola a tutti coloro che la chiedono per i loro riti. Sì. Quindi, secondo me, è una scelta che porta a una balcanizzazione della scuola, a un uso improprio del luogo della cultura, del luogo del sapere, del luogo del pensiero. No, ma questo è stata molto chiara. Sai, Oscar, che ha ricevuto anche una lettera di minaccia quando ha intrapreso questa battaglia, l'insegnante Fontanelli. Ma se per quello ne ho ricevuta una io anche ieri mattina, mail anche ieri mattina, sì, perché poi il clima è questo, no? Non una mail di chi? Cioè, una mail di minaccia in termini proprio fisici, di violenza, cioè minaccia inconsistente in violenza, minacciata violenza? No, la mail che ho ricevuto ieri è una mail di insulti di una presunta mamma cattolica, c'è anche il nome adesso a tutto l'avvocato, nella quale dice che se lei avesse i bambini nella mia scuola lancerebbe una petizione per farmi licenziare, cioè delle cose assolutamente folli, intollerabili. No, vabbè, ma guardi, professoressa, devo dire che noi su questo siamo abituati. All'acqua di rosa. Cioè, nel senso che se uno dice che sta per il TAP, no, il gasdotto, sì, certo. Viene bollato. Diciamo, quello dice molto del clima di ogni dibattito pubblico nel nostro paese, dove la misura, il senso dell'oggettività, il rispetto reciproco delle idee latita, perché di solito si finisce ammazzate in poco tempo. Vero. Ma noi naturalmente non lo facciamo, come non lo sta facendo lei. Il problema è che lei è consapevole, e anche chi ascolta deve esserlo, che al di là di qualche battuta che facciamo noi, questo è un classico confronto su uno dei temi fondanti della nostra idea di consorzio civile, di civiltà democratica occidentale nel cuore dell'Europa, perché ha a che vedere con storie tra virgolette pesanti, perché quando io, Alessandro, prima ricordavo oggi il triumvirato della Repubblica Romana, sai com'è? Quella è la prima espressione dal basso a suffragio universale, che l'articolo 1 della Costituzione diceva: è finito il potere temporale della Chiesa. Però noi siamo andati avanti con la questione romana fino al patto Gentiloni e dopo, fino al fascismo al concordato e dopo, fino al concordato di Craxi nel 1985. Quindi è una storia lunga che non ha, se posso dire la mia e mi taccio, tanto a che vedere con l'importanza della fede cattolica, cristiana, giudaico, la matrice giudaico-cristiana, quella che non si mise neanche nella Costituzione Europea, ti ricordi, Alessandro? Certo. È anche lì grande dibattito, certo, no? Certo. Ma non ha a vedere con quello. Nel nostro paese ha a che vedere soprattutto con la lunga coda del problema del potere della Chiesa rispetto al potere dell'Italia. Questo è ciò che rende ancora, tra virgolette, il dibattito incandescente, perché sembra che sia la lesione delle prerogative che nel regime concordatario e con il nuovo concordato comunque si continuava a riconoscere. Ricordi la polemica, Alessandro, su chi sceglie gli insegnanti di religione nelle scuole, eccetera eccetera. Quindi io circoscriverei qui la questione, non è tra chi crede e chi non crede, ma è una lunga evoluzione nel tempo di un problema un po' delicato e tagliente, quello delle prerogative della Chiesa, più che delle prerogative di chi crede e non crede. Poi questa è la mia opinione, magari la Fontanelli non la condivide, insomma. Non lo so, ci dica Fontanelli dove andare in pubblicità e anche a capire, rispondendo a Oscar Giannino, cosa farete adesso, cioè perché davvero c'è un altro grado di giudizio e andrete avanti? Beh sì, allora chi certamente la nostra è una battaglia nella quale crediamo. Noi continueremo come insegnanti a operare nelle scuole, nelle nostre scuole, seguendo questo pensiero laico, di accoglienza laica, e continueremo, ci stiamo attivando per procedere e portare la questione di fronte alla Corte per i diritti dell'uomo in Europa a Strasburgo. Ecco, quindi la battaglia che non finisce. Noi intanto la ringraziamo, grazie per essere stata con noi, Monica Fontanelli, che è, ripetiamo, una delle insegnanti che ha presentato il primo ricorso al TAR, quello vinto, poi dopo hanno perso il Consiglio di Stato. Certo, per i ricorrenti, però se vanno in Sicilia si arrabbiano, perché quando ti salutano dicono sa benedica, e quelli battutaccio. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ci sono tantissimi ascoltatori su questo tema, ma anche sul TAP. Sei pronto? Sì, lo so Oscar, che adesso mi diranno che mi paga il consorzio del gas, non è vero. No, questo no, cioè nel senso ci sarà anche chi la pensa così, ma dai, vabbè, insomma c'è chi la pensa Lo so. Libero pensiero in libero stato, dai, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Le 8:44 minuti, eccoci Oscar, guarda quanti ascoltatori con noi. Iniziamo da Michele. Inizio a mettermeli sulla croce. No. Michele da Padova, no. Buongiorno Michele. Michele, ci sente Michele? Ha detto pronto e poi è svenuto. Michele, sì, siamo pronto, qua. Mi sente? Benissimo noi. Sì, buongiorno. Allora, guardi, tanto per chiarire qual è la mia esperienza precedente. Allora, io sono il classico ragazzo che da giovane frequentava il patronato, ma il prete mi ha dovuto prendere per le orecchie per mandarmi alla cresima, d'accordo? Va bene, certo. Come la gran parte dei ragazzi di oggi. Non le dico cosa ho fatto io alla cresima. Mia moglie fa l'insegnante e conosco tutti i problemi della scuola. Mi viene da pensare innanzitutto che questo insegnante ha veramente molto tempo da perdere. Quelli che fanno i ricorsi, lei dice. Esatto, esatto. Chi fa i ricorsi. Seconda cosa, io sposo appieno l'autonomia del dirigente che decide che identità dare alla sua scuola. In una scuola pubblica? Certo. Perché la scuola non è un sistema avulso dal contesto in cui è nata e in cui opera. Però la scuola è laica. Avete mai provato cos'è l'integrazione oggi veramente in un patronato? Però mi scusi, lei Michele accetta allora con questo principio che se arriva una preside musulmana dia un'impronta musulmana alla scuola. E ha rispetto delle religioni degli altri, prima ancora di pretendere il rispetto del loro. Io dico solo questo, e quello stesso problema succede nella scuola, uguale identico. Si pretende rispetto per gli altri, ma non si pretende per rispetto per quello che c'è già. Non so, io adesso ha detto chiarissimamente come la pensa, però sono una riflessione. Ha questa sua posizione, che si basa sull'ipotetico fatto che siano tutti equilibratissimi, dice: beh, io mi fido, piena autonomia anche su questo, al dirigente scolastico, perché sarà comunque uno che pratica il rispetto, anche se poi chiede rispetto per la sua identità religiosa. L'obiezione è che lei in questo modo apre la scuola al pieno relativismo, che non è solo quello che pensa gli individui, è dell'utilizzo della scuola al pieno relativismo. Il pieno relativismo significa appunto dal baista la religione dei Selassie e così via. Allora, molto carina sta fare. L'ho detto apposta per suscitare la reazione, per vedere se eri attento. Ma questa cosa qui, la scuola è fatta per questo, da una parte. Dall'altra parte dicono, no, questo è puro relativismo rispetto all'importanza della matrice giudaico-cristiana. Attenzione, questa storia di dire, no, basta il rispetto. La scuola non è l'utilizzo di qualunque cosa, basta il rispetto. Sì, è vero che è calata nella realtà. Come sempre, la scuola è un bene fisico materiale, come tutti i beni che hanno dei limiti, il problema del loro utilizzo pubblico, dei beni comuni, come si suol dire, è dato proprio dalla non replicabilità nel tempo di tutti gli equivalenti utilizzi. Ecco, questo è un limite profondo, secondo me, della sua posizione. C'è Giuseppe da Lecce, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, allora io già come avevo preannunciato alla giornalista, a me sembrano argomentazioni assurde, cioè prendere un argomento, ma proprio, allora io posso prendere qualsiasi argomento che non sta né cielo in terra, argomento e cerco di convincere qualcuno che quella cosa è giusta, cioè è chiaro che un sacerdote, siamo in una comunità cattolica, è chiaro che può andare anche in qualsiasi momento a benedire una classe, non c'è niente di male, non, almeno a me, per lei Giuseppe, per lei. Guardi, aggiungo che non sono credente, per cui però ho il rispetto, e il rispetto è questo, poter no, fare però benedire, non può, però non può avvenire così, cioè non può dire se il sacerdote e gli insegnanti si mettono d'accordo in un orario scolastico va, e il ricorso è proprio su questo, quando si può fare, con che regole, e il ricorso che pure è favorevole a chi diceva no, si trovi il modo di farlo, dice però fuori dall'orario scolastico eccetera eccetera eccetera, ci vuole concorso pubblico, perché c'era anche chi diceva mandiamo i sacerdoti a fare comunque le benedizioni contro il diavolo quando non c'è nessuno, ecco, quindi non è tanto questo problema. Vabbè, lei sta a Lecce, lei è favorevole alla TAP o no? Giuseppe, secondo me cosa potrebbe succedere? Che scoppi il tubo, oppure che qualcuno va a bucare il conta e si va a fregare il gas? No, Giuseppe, credo che sia, perché ci sono altri sul TAP, credo che sia anche una questione di dire lì è un tratto di costa assolutamente incontaminato che verrebbe rovinato da questo tipo di opera, cioè, credo che c'è anche una questione di impatto ambientale, anche se il ministro dell'ambiente dice che invece un tubo, il gas è una trincea di un metro di profondità con 200 livelli, si spostano poi si rimettono, per dico quelle che sono le obiezioni, no, mi ha scritto per esempio che c'è una incontaminata grotta che non saprei ripetere, mi scuso, di un ascoltatore, mi ha detto c'è un'incontaminata grotta che evidentemente lei non ha mai visto, che verrebbe? E non lo so, no, questa, se uno cita questa verrebbe. Grotta è come dire che verrebbe in qualche modo minata nella sua bellezza, succede qualcosa, non minata con le mine, minata, ripeto, nella sua il giudice amministrativo di 2 gradi di fronte alla cosa, prendiamo la direttiva Seveso sui disastri, il giudice ha detto io qua ho tutte le perizie tecniche, gli impianti per un impianto di trasmissione di gas, vista la temperatura e la pressione a cui questo avviene, non si applica, a meno che non ci siano interventi dolosi dell'uomo. Certo, se ci mettiamo a provocare il disastro ambientale per provare che quella è un'opera pericolosa, cosa che io non escludo che qualche matto possa arrivare a fare, ma siamo alla follia, dice non si prende in considerazione. Guarda che però c'è un ascoltatore proprio, Mattia ci chiama da Lecce. Sì. Mattia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io ne ho 3 di considerazioni sul tema TAP. La prima di carattere generale, questi amministratori locali fanno ridere, per decenni hanno chiuso gli occhi, se non sono stati palesemente complici dell'abusivismo edilizio che imperversa in Puglia, in Salento in particolare, oggi si svegliano, sono tutti ambientalisti. La seconda è per il presidente Emiliano. È singolare che un magistrato in aspettativa voglia fare la guerra a tutti i livelli dello Stato che hanno autorizzato, che hanno bollato diverse carte nelle quali qualcuno le ha lette, io me le sono lette tutte, nelle quali anche diciamo un non tecnico capisce il livello di attenzione e di dettaglio che è stato prestato per autorizzare quest'opera, che fondamentalmente, come ricordavate, è un tubo, ce n'è un altro che approda a Scilla, nella bellissima Scilla in Calabria, che porta il gas dalla Libia. Esatto. Terza considerazione, io se fossi cittadino di Melendugno denuncerei il sindaco Marco Potì che sta sperperando denaro pubblico per una battaglia legale assolutamente arbitraria, e probabilmente se fosse anche la società l'avrei denunciato per lite temeraria. Vabbè, insomma, grazie. Grazie a lei, Mattia. Questa è la sua posizione molto, molto netta su questo. Non so se Francesco da Napoli. Sì. Sì, Francesco. È lei. Ciao Oscar, ciao Alessandro. Eccoci. Io sono una persona estremamente innamorata con il talento da 50 anni e sono estremamente innamorato del talento. Sì. Relativamente agli Ulivi avrei un'altra considerazione da fare. In primis, quella zona tutti sanno come sia fustigata dalla Xylella, per cui gradirei lo stesso atteggiamento di Emiliano nel difendere un altro tipo di problema che ha bisogno di ben altra visibilità rispetto a quella che gli è stata data fino ad adesso. E poi l'espianto. Io personalmente ho degli ulivi Junior Salento dell'800, ne ho acquistati due dal mio vicino, li ho espiantati e li ho ripiantati. E funzionano? Funzionano. Superiore, vivono? Cosa? Vivono tranquillamente? Sì, l'ho fatto l'anno scorso, hanno fiorito, hanno gemmato e quest'anno mi hanno dato pure un po' d'olive. Ah, vabbè. E sono meravigliosi, almeno uno addirittura si è spaccato in due. E da un ulivo ho due tronchi meravigliosi. Si può fare, vabbè, Francesco. Quindi, insomma, anche gli ulivi. Chiudiamo anche con Alida da Roma che ci chiama. Che, no, è caduta la linea. Vabbè, insomma, voleva andare. Vabbè, Oscar. Qui, beh, adesso ci accuseranno di aver passato esatto, solo no, a favore. No, del ma ripetiamo ai nostri ascoltatori: i conduttori non c'entrano niente con le telefonate. Ma che nessuno c'entra, esatto. Nel senso che anche. Anche tutta la struttura di non c'è 24, alcun criterio di scelta fatto arbitrario secondo opinioni pare. No, perché a qualunque ora gli ascoltatori dicono hai visto, te li sei scelti, non ci siamo scelti nulla. Esatto. Guarda che Alida c'è. Alida, buongiorno. Sono a 20 qua. Secondi Alida, per favore. Sì, sì. Niente, io vorrei dire che non bisognerebbe proprio fare discussioni del genere sulle benedizioni a scuola, perché intanto in questi giorni sono passati a benedire in casa. Poi ci sono le chiese, quindi mi pare che ci siano i luoghi preposti. Quindi chiese e case e non le scuole. Va bene Oscar, dovevamo anche avere Augusto Minzolini, senatore, che però non ha risposto, non al, risposto telefono. Al telefono. Vabbè, insomma, però risponderà alla chiama quando non ci sarà dubbio, da votare per le dimissioni. Comunque insomma, si è dimesso, ha detto che vuole andare a Sant'Egidio, ma quando le votano le dimissioni? Ma vabbè, detto dai, tutto questo, la benedizione in Parlamento forse servirebbe a qualcosa. Ma lì c'è secondo me. Lì c'è. Vabbè, sì, ma credo che ci sia. Credo che ci sia. Ma poi secondo so. Te non è efficace, quindi no, secondo me non è efficace, anzi è una prova dei dubbi sull'esistenza, perché ci fosse, ammettiamo, ci fosse, ma non avrebbe seppellito sotto le folgori quella casa di scelte di quel tipo lì, ma dai, ti vuole un buon caffè, dai, adesso andiamo a ciao a tutti, ciao.